più che dire i numeri, io do diciamo, i nodi, a partire dal titolo, che è un titolo tragico, e quindi ci riporta a quella che è probabilmente una sorta di grido d'allarme. Questo grido d'allarme diciamo, si concretizza in un dossier. Da questa sintesi statistica delle biografie noi vediamo che ovviamente i numeri sono tali che sicuramente noi partiamo dalla consapevolezza che ogni suicidio è un caso da sé e non va strumentalizzato, perché è un dolore ulteriore per le famiglie. E allora, se è vero che ogni suicidio non va, diciamo, standardizzato, come se fosse tutto causa del sovraffollamento, se è vero che, diciamo, ogni suicidio merita attenzione a quella storia individuale, al suo percorso di vita, alla sua solitudine e così via, però è anche vero che quando i numeri sono così alti, bisogna interrogarsi su non solo le cause individuali, ma sulle concause esistenti. Pensate ad una comunità di un piccolo paese o un quartiere di 60.000 abitanti e pensiamo che in questo paese di 60.000 persone ogni 4 giorni si suicida una persona. Ebbene, questo allarmerebbe quel sindaco, allarmerebbe quella comunità, allarmerebbe le ASL, diventerebbe un caso politico e pubblico, diventerebbe un caso sociologico. Diventerebbe un caso su cui tutti dovremmo interrogarci. E noi, ovviamente, questa attenzione vorremmo che fosse rivolta guardando al complesso della situazione penitenziaria. Se uno mi dice c'è un rapporto diretto causa-effetto tra sovraffollamento e suicidio, tra chiusure e suicidio, tra disagio e suicidi, non è dimostrato. Sicuramente, però, un compito di tutte le istituzioni è quello di prevenire, intervenire, sapere alla luce della ricostruzione statistica che noi facciamo chi si suicida, in che momento della prevenzione, ritrovare una sorta di medio comune denominatore e su quello fare politiche di prevenzione, politiche che comunque producano un aumento della qualità della vita. Oggi troppo tempo si passa in celle e in queste celle, come noi le abbiamo viste recentemente, penso a Regina Coeli, dove non c'è più spazio per andare a scuola, non c'è più spazio per attività comuni, la vita si svolge ormai in cella. Non si può stare in cella 20 ore in letti a 3 piani con un'assenza di attività. Sicuramente dobbiamo toglierle tutte le concause, ritornando ad una idea di pena che sia piena di vita. Noi nel nostro lavoro di monitoraggio abbiamo visto purtroppo che oggi stiamo ritornando pian piano ad un carcere più chiuso, che deve gestire sofferenza psichica, doppie diagnosi, che deve gestire situazioni molto complicate. Quelle 12.000 persone in più rispetto alla capienza ricettiva del sistema penitenziario richiedono oggi, a nostro avviso, non un piano di edilizia penitenziaria, perché quel piano di edilizia penitenziaria sarebbe una rincorsa affannosa e impossibile. Allora noi pensiamo che la risposta sia in un numero, nei quei 21.000 persone che hanno desiderato pena in termini. Significa che si tratta di persone che una parte di loro non potrà usufruire di misure alternative perché ovviamente c'ha gli ostacoli normativi dati dall'articolo 4 bis, ma una parte significativa sì. L'idea che la pena non si sconta solo in carcere ed è sicurezza. Questo è un fattore di sicurezza. Una persona che ha fatto tutta la pena in carcere è un fattore di insicurezza per sé e per gli altri, perché non ha idea di come funziona la società. In tutto questo, se dovesse essere tradotto in legge il DDL 1660, depositato alla Camera dei Deputati, proposta di legge del governo in materia di sicurezza, avremo una ondata ingestibile di affollamento penitenziario. Ingestibile.